Benvenuti, benvenuti a questa puntata di Stampa e Vangelo, puntata che dobbiamo fare sotto la luce artificiale perché oggi Roma è travolta dal diluvio, è tutto buio, pioggia incessante e quindi oggi si fa la diretta da interni, non possiamo fare la location esterna e in luce artificiale. Questo potrebbe creare una lettura un po' più complicata dell'immagine e della voce, ma speriamo che funzioni tutto. Sono già arrivati Alberto Cerutti, Pippo Imbesi, Mauro Rotunno, Claudio Amato, Bruno Oliviero. Se mi date conferma del funzionamento della macchina, possiamo cominciare con la diretta. Saluto Mary Rossi. Claudia Brignoli, più vecchia di un anno, ieri era il suo compleanno. Simon Pietro Carta, Alex Zino, Paola Zen, Mary Rossi. E allora possiamo cominciare davvero. Saluto Alberto Cerutti, che ieri ha avuto Gianfranco Amato a Novara. Ieri c'è stata la sua serata, mi pare. Saluto Jacopo Pioli dalla Cina che mi ha scritto, lo ringrazio molto per la sua email di incoraggiamento. Un abbraccio forte a Jacopo Pioli. Saluto a Giuseppe Narciso, Leonardo De Stefano, Vincenzo Lucibello, Giovanni Marco Tullio, Antonella Bagno e vedo che il primo a dire che funziona è Alex Zino, dice fruizione ok. Dunque possiamo cominciare con la nostra diretta. Saluto anche Dario Missoni e tutti coloro che dicono che le trasmissioni stanno funzionando, nonostante oggi, ripeto, ci troviamo in luce artificiale in una giornata veramente tosta. Mingun De Bibian scrive: nelle umide pianure del profondo nord tutto funziona. L'Italia è un po' tutta inumidita, diciamo, siamo travolti da un maltempo molto pesante. Giordano Corsetti, Roberto Ranaldo, Margherita Corralluzzo, Bruno Olivero da poco celebra la Santa Messa e affiderà a Dio il popolo della famiglia. Dio vi benedica tutti, grazie a Bruno Olivero. Saluto Paola Belletti, Alberto Cerutti dice: sala piena a Novara, grande successo, non c'erano dubbi, anche l'altro ieri a Siena, grande successo. Saluto Emanuela Pongiluppi, nostro coordinamento editoriale, Gianmarco Valenti, Alberto Agus, il conduttore di Atlantide, una straordinaria trasmissione di Popolo della Famiglia TV. Ecco Davide Vairani, la nostra colonna del community La Croce, il quotidiano La Croce di oggi, che non ho neanche fatto in tempo a lanciare. Oggi è una giornata un po' più convulsa del solito. Saluto Tiziana Mastroviti, Maria Rosa Ferraresi. Sappiamo che c'è un pezzo d'Italia che addirittura subisce alluvioni in queste ore. Sono dunque molto vicino agli amici del Piemonte, della Liguria, che vivono un flagello nel maltempo particolarmente rilevante. Pensate un po', oggi ci sono messi pure a fare lo sciopero dei trasporti, quindi abbiamo l'Italia bloccata dal diluvio, le regioni alluvionate, i treni che non funzionano per lo sciopero dei trasporti, anche gli autobus, perché scatta alle 8:30 lo sciopero anche del trasporto locale. Siamo davvero un paese molto molto strano, eh? Decide di aggravare già le situazioni di difficoltà addirittura con gli scioperi. Massimo Pistoia dice: quanti siamo? Beh, molte centinaia, direi qualche migliaio alla fine della trasmissione. Saluto Carlo Scarsella che ricorda che oggi inizia il tour di conferenze di Gianna Jessen, amica della Croce fin dal primo numero. Fu una bellissima lunga intervista in 5 puntate che facemmo con Gianna Jessen proprio all'esordio del quotidiano La Croce, la mia amica personale. Oggi a Como inizia il suo tour di conferenze in Italia. Gianna Jessen, sopravvissuta a un aborto salino, per chi non la conoscesse, oggi peraltro protagonista di una serie di racconti sul quotidiano Il Giornale, sul quotidiano La Verità. Dunque, comincia la sua presenza in Italia. Saluto anche Anna Russo, Massimiliano Esposito, Paolo Ruotolo, Nunzia Conte. E allora, se fate un mi piace e un condividi, andiamo a leggerci la pagina della buona notizia di oggi, della buona novella del Vangelo di oggi, che è il Vangelo di Luca, siamo sempre nel 21esimo capitolo. Saluto Sebastiano Parafioriti, Rossella Paone, Marco Sciamanna. Siamo davvero moltissimi. Vi chiedo un mi piace e un condividi per andare a far sapere, a far conoscere a più persone possibili nostra pagina di Vangelo che tra poco leggeremo. Saluto Cristina Zaccanti, ieri 1200 in diretta, sì, in effetti la diretta ieri è stata di 1200, compresa la differita, che siamo arrivati quasi a 3000 persone, quindi come vedete riempiamo sale piuttosto capienti ogni giorno, grazie a Stampa e Vangelo e a tutta la programmazione di Popolo della Famiglia TV, che ricordo ha 18 trasmissioni, 18 conduzioni di 16 trasmissioni diverse e che ha raggiunto nei primi 44 giorni di trasmissione ben 363.000 persone che si sono connesse alle varie trasmissioni, almeno una volta, alle varie trasmissioni che abbiamo tenuto, ripeto, un palinsesto di 16 trasmissioni diverse, appunto, che sono condotte da dirigenti del Popolo della Famiglia, come ad esempio Nicola Pasqualato, che è arrivato adesso, che tiene la trasmissione Famiglia e Autismo, una delle più seguite del nostro palinsesto. Saluto anche Marco Pennetti, che il 28 ricorda Gianfranco Amato a Perugia. Gianfranco Amato sta facendo un tour molto incessante, diciamo così, è stato a Siena, è stato a Novara ieri e sarà a Torino, credo, il 27 e il 28 sarà a Perugia, mentre io sarò stasera a Trieste, stasera alle 18 facciamo la messa con l'Arcivescovo Crepaldi a Trieste. Seguirà un convegno. Domani sarò a Cordenons, nella terra dove il Popolo della Famiglia ha già eletto non solo un consigliere comunale, ma anche il vice sindaco. Dopodomani sarò invece a Sesto Imolese, in terra emiliano-romagnola. E dunque, come vedete, un'iniziativa al giorno del Popolo della Famiglia. Il 27 ne facciamo due: una a Torino con Gianfranco Amato e una a Sesto Imolese con il sottoscritto. Non ci fermiamo mai. Mi chiedono se c'è diretta streaming da Trieste. Non lo so, sinceramente. Il mio problema oggi, caro Nicola, è arrivare a Trieste, che vi assicuro oggi sarà un'impresa con lo sciopero dei trasporti pubblici locali qui a Roma. Con lo sciopero dei treni stiamo facendo veramente i miracoli, perché Trieste da Roma è molto lontana e oggi alle 18 devo essere lì e non so veramente come faremo, ma il nostro Signore ci darà una mano. Saluto Antonietta De Jesu, arrivata in ritardo. Emanuele Pizzatti, ricordo a tutti, un mi piace, un condividi e leggiamo la pagina di Vangelo di oggi, la nostra buona notizia del giorno. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: guardate il fico e tutte le piante. Quando già germogliano, guardandoli capite da voi stessi che ormai l'estate è vicina. Così pure, quando voi vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico, non passerà questa generazione finché tutto ciò sia avvenuto. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Questo è il Vangelo di oggi, è parola del Signore, una fortissima, bellissima, è anche breve pagina di Vangelo, ma che ha questa frase che tutti ricordiamo: le mie parole non passeranno. E dobbiamo connettere il bello della lettura del Vangelo quotidiana che facciamo qui a Stampa e Vangelo, che ci ricordiamo che ieri venivano annunciati tutti una serie di segni che sarebbero apparsi per far capire che il regno di Dio era vicino, e quindi mettendo in connessione segni terribili anche la pagina di oggi con la pagina di ieri, capite che sono appunto le esortazioni di Gesù Cristo a tenerci sempre pronti, estote parati, diciamo così, siate sempre pronti per perché il regno di Dio è vicino. Questo è l'elemento centrale che deve spronare anche la nostra motivazione quotidiana nel fare quello che facciamo in questa testimonianza terrena che rendiamo alla verità. Saluto Antonio Basile, Loretta Gabrielli, Winsun Senesi, che dice buongiorno a todos, addirittura in spagnolo, Francesco Favret, Donatella Lottà. E allora un mi piace e un condividi alla diretta, perché affrontiamo una serie di titolazioni che arrivano dai vari quotidiani. Il fiume di fango e paura è il quotidiano La Stampa che racconta quello che stiamo vivendo anche in questo momento. L'Italia totalmente battuta dal maltempo e col Tanaro che ha straripato nel Cuneese tutto il nord-ovest, che rivive l'incubo dell'alluvione del 1994 che fece decine di morti, il Po che è uscito fuori dagli argini a Torino, emergenza in Liguria, strade chiuse, ferrovia verso Savona bloccata, insomma un bollettino di guerra, lo devo segnalare, figlio del consueto problema del dissesto idrogeologico del nostro paese. E purtroppo anche in una città come Roma, che viene battuta dalla pioggia da qualche ora, questo significa semplicemente la città paralizzata. Lo ripeto, si è aggiunto a questo anche uno scellerato sciopero del comparto dei trasporti, sia del trasporto pubblico locale che dei treni. È davvero qualcosa che un pochino impressiona, insomma, un paese che si butta via da solo, oltre a avere le calamità naturali. In tutto questo, in questo schema, abbiamo cosa? Abbiamo per esempio la rivolta degli immigrati che fa titolare a Libero, il titolo di apertura di oggi di Libero è Bianchi e Neri si menano, una rivolta degli immigrati che si è segnalata a Torino con bombe carta, lancio di bottiglie, lo slogan era italiani di merda, per essere chiari, questo è uno slogan con cui quelli che vivono in un centro d'accoglienza che è l'ex villaggio olimpico a Torino, si sono ribellati, si sono caratterizzati per una rivolta, gli italiani hanno risposto con la violenza, il prefetto ha chiesto l'invio dell'esercito, ha chiesto l'invio di 50 militari, questo è il quadro. Purtroppo, questo quadro racconta un paese veramente attraversato dalla devastazione, quella naturale, quella che ci creiamo da soli, dalla violenza implicita, e in tutto questo la nostra classe dirigente che fa la rissa come quella da strada, diciamo così, la rissa delle ultime ore di campagna referendaria. Oggi ricordiamo è venerdì, il prossimo venerdì la campagna referendaria sarà chiusa, quindi abbiamo 7 giorni ancora da dover soffrire questa campagna davvero oscena, dove uno dice scrofa, serial killer, gli altri usano addirittura i bambini malati di diabete dicendo che con il sì guariranno, cioè sarà meglio, sarà più agevole guarirli. Questa poveretta storia del tweet fake fatto dalla moglie di Brunetta, c'è una bella prima pagina sul quotidiano Il Tempo in cui si fa una telefonata a Brunetta per chiedere un'intervista. Buongiorno professor Brunetta, sono del Tempo, la chiamo per un'intervista. Lui risponde: no, nessuna intervista, se lei riporta questa mia risposta, acquererò anche lei. Ma si fa così. Già, ma si fa la moglie che fa il tweet fake, il profilo fake per insultare a rotta di collo senza limiti tutti gli esponenti di istituzioni, al Presidente della Repubblica in giù. Non lo so, insomma, è qualcosa di davvero. Come cittadini italiani ci lascia allucinati, allucinati. Lo ripeto, una giornata che veramente pare incredibile. Un mese netto a Natale, 25 di novembre, eppure abbiamo davvero quei segni dal cielo che ci fanno sembrare che davvero il regno di Dio sia vicino, perché è qualcosa di straordinariamente brutto, diciamo, straordinariamente brutto quello che stiamo vivendo. Ieri sera in Rai ci siamo beccati l'ennesima puntata della trasmissione di propaganda dell'unione omosessuale. Non si fa parola dell'unione gay finta che abbiamo raccontato sul quotidiano La Croce, nel condovizia di particolari. Noi continuiamo a battere l'Italia, questo possiamo fare, andare avanti, dietro, spiegare e far crescere il popolo, la famiglia. E allora lo consideriamo un antidoto a tutta questa ondata di fango che è fisico e materiale, e anche immateriale, diciamo così, metaforico, che sta travolgendo l'Italia. Non c'è classe dirigente che si salvi. Ripeto, quella sindacale oggi ha proclamato uno sciopero totalmente insensato che paralizzerà l'Italia nel momento in cui l'Italia è già paralizzata dal disastro naturale. Qualcosa davvero di sconcertante che sta avvenendo. In più, le tensioni con l'immigrazione, il prefetto che ti chiama l'esercito e la classe dirigente politica non mette mano a niente se non ai propri interessi di bottega, alla guerra in corso tra sì e no. I giornalisti, che non è che provano a spiegare, no, rincorrono questa rissa a colpi di insulti reciproci l'uno con l'altro. Quello che si dice onesto intanto rubava facendo firme false da Bologna a Palermo. Veramente. Viene da dire, la speranza è solo nel popolo, la famiglia, lo diciamo con, insomma, un po' di senso di responsabilità, di fatica, tutto questo, ma crediamo davvero che probabilmente ci sia questo tipo di oggettiva difficoltà. Saluto Gloria Callarelli, che domani sarà protagonista del quotidiano La Croce, ci ha già mandato un bellissimo articolo che domani leggerete sul quotidiano La Croce. Saluto Alessandra Spinozzi, saluto Alex Zino. Ci rendiamo conto di quanto questo paese abbia bisogno di uno scossone che solo noi del popolo e la famiglia possiamo attuare, nessun altro. Saluto anche Guido Mastrobuono, protagonista del popolo e la famiglia di Roma. Ieri sera c'è stata la trasmissione Cronaca della Capitale proprio del PDF Roma, qui su Popolo e Famiglia TV. Rita Mesiti dice: grazie a Dio che esistete. Alessandra Mondelli cita la cronaca della serata di ieri a Novara con Gianfranco Amato. Massimiliano Amato ha assicurato la diretta streaming. Grande coppia i fratelli Amato, lo sottoscrivo 10.000 volte anche col sangue, davvero grande coppia. Danilo Leonardi dice: non aver revocato lo sciopero dei trasporti di oggi è indice del gravissimo degrado del mondo sindacale. Bravissimo Danilo. È quello che stavo provando a dire, ripeto, un problema di classi dirigenti complessivo, proprio complessivo. Oltretutto, magari anche i giornali, anche il giornalismo, magari la RAI potrebbe premere un po' per spiegare ai dirigenti sindacali che oggi mettere uno sciopero dei trasporti in un'Italia devastata e alluvionata era una follia. Evidentemente c'è qualcuno che non riesce a ragionare neanche nel mondo della comunicazione, che la comunicazione deve anche operare pressioni per il bene, diciamo così. Ma nessuno ha scritto una riga, un articolo, niente. Ne parliamo noi a Stampa e Vangelo. Nicola Ocello, che bello! Nicola Ocello è la guardia giurata che mi ha salutato a Via Teulada. Ecco, questo mi fa molto lieto di averlo incontrato perché ho anche raccontato da qualche parte l'episodio. Mentre andavo in Rai, anzi, uscivo da una registrazione Rai, ho incrociato Bruno Vespa che con Giorgio Napolitano era tutto intento a vari salamelecchi al potere. Ho appena registrato una puntata a favore del sì, e c'era tutta questa gente intorno a Vespa e Napolitano. Nicola, che adesso si è palesato, è venuto da me e mi ha detto: io seguo sempre le dirette del popolo e della famiglia, andate avanti, vi sostengo. E questo è stato un momento in cui sono stato, diciamo così, molto gratificato, perché uscivo da una diretta in cui, come al solito, a Rai 1 avevo dovuto fare l'uno contro tutti a difesa della famiglia. Uscivo e vedevo quella scenetta francamente orribile dell'anziano Presidente della Repubblica circostato dalla Corte dei Miracoli, col solito Vespa che potete immaginare, in atteggiamento salamecchevole, diciamo così, e nostro Nicola, guardia giurata, che è venuto accanto a me per dirmi: ho sbagliato divisa. Nicola Ocello dice: ho sbagliato divisa. Danilo Leonardi manda però con l'occasione un saluto alle guardie giurate della RAI. Nicola ha detto: forza, andate avanti. Seguo sempre le dirette di Popolo Famiglia TV e mi ha fatto davvero molto piacere. Saluto Albino Marino. Raffaello Danti dice: nella tensione tra sì e no si sono scordati anche dei poveri terremotati, ed è verissimo. Alexino saluta Nicola Ocello e lo ringrazia anche da parte di tutto il popolo, la famiglia che segue Popolo Famiglia TV, migliaia di persone, lo ripeto, ogni giorno, nel nostro piccolo spazio, ma sempre più forte anche in termini numerici, in cui riusciamo a fare informazione e contro, informazione. Saluto Andrea Cona, che si è appena connesso, e dal buongiorno a tutto il Popolo Famiglia, come Mario Cambuli, Lorenzo Casi, Laura Morra, che dice: il popolo, la famiglia, a respirare aria pulita. Marco Buono dice: sempre così, Mario, i capoccioni sono scollegati dal popolo, che la pensa completamente in maniera differente, e così si viola la Costituzione e la sovranità del popolo. Ha ragione Marco Buono. Mauro Rotunno dice: i terremotati per loro sono solo un danno collaterale. Maria Bellino dice: Mario, scusa la domanda forse sciocca, ma sulle schede ci sarà il logo del Popolo della Famiglia? Certo, come c'è stato alle ultime amministrative in tutte le principali città, avete trovato il simbolo del Popolo della Famiglia sulle schede elettorali, sia delle prossime amministrative, sia delle politiche. Nel caso si va ad elezioni politiche a breve, ma anche se si andrà a scadenza naturale, troverete il simbolo del Popolo della Famiglia, questo ve lo garantiamo. Saluto Pippo Imbesi, dice: la speranza è solo nel popolo della famiglia, perché l'unico interesse è quello rivolto ai valori naturali della famiglia, cellula essenziale della civiltà. Dudù Di Leo dice: ciao Mario, volevo ringraziarti ancora per la bellissima giornata di Bologna, avanti così, buon lavoro e buona giornata a tutti, grazie. Tra l'altro sul numero di domani della Croce troverete ancora articoli che raccontano la splendida giornata della Festa della Croce di Bologna, perché abbiamo dovuto, diciamo, serbare alcuni e non riuscivamo a metterli in tutte le edizioni di questa settimana. Domani ne troverete ancora sul quotidiano La Croce. Alessandro Zorco dice: la scena dei due super pensionati Vespa e Napolitano è veramente raccapricciante. Ero abbastanza raccapricciato anch'io. Antonietta De Jesu dice: io ti rivoterò, ma quando voteremo? Allora, sulla croce quotidiana di oggi trovate un'analisi sulle cose che stanno accadendo e su cosa accadrà dopo il 5 ottobre, perché tutti vi raccontano la rissa di questi giorni. Noi ci siamo preoccupati sul quotidiano La Croce di oggi di raccontarvi cosa succederà dal 5 dicembre. Ho detto ottobre? Dal 5 dicembre, non fino al 4. Il racconto della rissa è un racconto poco significativo, sia quando Obama dice votate sì, sia quando The Economist dice votate no, come ha detto ieri il settimanale britannico. A noi interessa quello che accadrà dopo, stiamo provando a spiegarlo in maniera che siamo tutti pronti. Oggi abbiamo raccontato gli scenari che si aprono con le due possibilità, sia che vinca il sì, sia che vinca il no, e questo articolo, cosa accade dopo il 4 dicembre, lo trovate in prima pagina sul quotidiano La Croce. Mauro Rotunno fa una sintesi, dice: se vince il sì si vota subito, sostanzialmente trovate questa analisi, se vince il no dipende. Questa sintesi di Mauro Rotunno è sostanzialmente corretta ed è proprio quello che andiamo a spiegare. Se si vota subito, ovviamente per il popolo e la famiglia significa fare subito un lavoro enormemente importante per far sì che le liste siano presentate alle elezioni politiche, magari tra qualche mese. Emanuele Previtali dice: questo fine settimana c'è il DNF a Verona, Gianfranco Amato a Torino, diciamo anche ci sono io a Trieste, a Cordenons e a Sesto Imolese, quindi siamo tutti molto impegnati. Cesare, ci ha scritto Cesare Casaroli, vuole fare gli auguri a Silvia Lucchetti, che è sua moglie, e Silvia Lucchetti compie gli anni oggi. E come faccio a esimermi dalla canzoncina di auguri per Silvia? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Silvia, tanti auguri a te, buon compleanno anche a Silvia Lucchetti. Caterina Francone dice: sono una nuova simpatizzante e vi voterò. Benissimo, stiamo crescendo sempre di più. a parte il voto come ti aiuto, scrivete ad inolfi@gmail.com, vedremo tutte le indicazioni per essere elementi di sostegno. Mauro Rotondo dice a Mario: a Trieste ci va in barca se continua così. Sono molto preoccupato, ve lo dico, devo arrivare a Trieste e francamente non so proprio come, insomma, non so come fare a arrivarci. Adesso vediamo, c'è un treno fino a Venezia che almeno dovrebbe andare, dicono, proverò a andare. Dario Tasca dice che c'entrano le idee politiche col no al referendum, vabbè, questo l'abbiamo spiegato più volte. Pippo Imbesi dice che questa cosa è molto importante. Si è arrivata all'assurdità del Premier e del Ministro Lorenzin che promettono cure migliori con il sì. Ma questo non è ricatto, questo è orrendo, è veramente orrendo. Ha ragione Pippo, è qualcosa di incredibile. Oggi più di un giornale segnala questo orrore. Fatemi prendere la prima pagina del quotidiano. Il giornale c'è un articolo di Francesca Angeli, col sì, cure migliori giocano anche con la nostra salute, lo segnalo dal quotidiano La Croce. Gloria Gallarelli mi dice: da Mestre c'è quello per Trieste, so che c'è il treno per Trieste da Mestre, ma qual è il problema? Che c'è uno sciopero nazionale che blocca i treni regionali, quindi il treno che da Mestre va a Trieste con ogni probabilità non c'è, quindi mi verranno a prendere gli amici triestini, speriamo proprio che io arrivo a Mestre, questo è il problema. Attualmente, o anche andare da qui fino alla stazione sarà un problema non da poco, col diluvio, lo sciopero dei mezzi pubblici. Vabbè, vedremo quello che saremo in grado di fare. Questa titolazione, ripeto, del giornale dice una cosa molto seria. A questo punto segnalo anche l'apertura del Fatto Quotidiano che dice: usano pure i bimbi diabetici. A porta il Premier e Lorenzin promettono cure migliori con il sì. È una cosa davvero molto grave. Gloria Gallarelli dice: il PDF è quello che aspettavamo. Dario Tasca dice: mica promettono cure migliori, semplicemente una sanità più efficiente della realtà, perché mentre la sanità è appannaggio delle regioni, le regioni hanno fatto un casino, invece con lo Stato centrale la sanità va alla grande. Ragazzi, ma che diciamo? Insomma, non diciamo boiate, per favore. Silvia Lucchetti intanto si è presa la canzoncina, che figure che mi fate fare, con i vostri auguri di compleanno. Ora, poiché siete migliaia, allora, il problema che vi devo spiegare è questo, siete migliaia, in connessione contemporanea al singolo istante andiamo sempre a tripla cifra in questa trasmissione, ed è abbastanza una rarità per le dirette di Facebook. Bene, poiché i giorni dell'anno sono 365, è statisticamente probabile che ogni giorno ci siano molte persone che fanno il compleanno, che si connettono in diretta. Ora, se mi fate fare la canzoncina tutti i giorni, prima o poi finisce veramente Marco Buono fa il montaggio virale delle mie canzoncine, io sono rovinato per sempre. Quindi, per il bene del popolo e della famiglia, insomma, limitate la richiesta di canzoni d'auguri, diciamo. Ecco, vedi come c'è scritto: Davide Vettorello, a sapere che ti produci in queste performance canore, ti facevo fare gli auguri al Paolo Gramaglia. Appunto, c'era anche, no? Varie persone, però Silvia Lucchetti è una delle nostre militanti più affezionate e telespettatrici più fedeli, diciamo così. Quindi si merita tutto, anche perché molti la conoscono, e quindi, tra l'altro, la bellissima Silvia Lucchetti, possiamo tranquillamente dire che la sua folta chioma fa sempre bella mostra di sé durante le riunioni a cui partecipa. Il 23 maggio, vedi, Pippo Imbesi chiede anche lui la canzoncina, e dunque poi alla fine ci troviamo a dover fare tutto questo. Vi dico che Stampa e Vangelo, poiché sono in trasferta appunto in questi 3 giorni, domani nella sessione alle 9:55 non ci sarà. Quindi il sabato lo potete fare tranquillamente, e anche lunedì, poiché io sarò in viaggio per ritornare dopo la serata a Sesto Imolese verso Roma, il viaggio impedisce la tenuta della puntata perché in movimento la diretta non si riesce a fare, e dunque dovrete fare a meno di Stampa e Vangelo. Stampa e Vangelo ritorna dunque martedì alle ore 7:55 in diretta su Popolo della Famiglia TV. Dunque, ricordate, ditelo anche alla Pongi, che si sarà magari distratta dalla diretta di Stampa e Vangelo, che gli elementi problematici di trasporto che mi portano a dover muovermi da Trieste verso Gordenons per il convegno di domani e da Sesto Imolese verso Roma lunedì dopo la serata domenicale trascorsa con gli amici di Sesto Imolese e del Popolo della Famiglia di Medicina in provincia di Bologna, le puntate di sabato, di domani e di lunedì non possono andare in onda. Ci ritroveremo con Popolo della Famiglia TV e Stampa e Vangelo martedì, mentre lunedì va regolarmente in onda Gianfranco Amato col suo Liberamente. Ecco qua, bravissima Manuela Pongiluppi che ha segnato, anche Francesca Centofanti, il coordinamento editoriale, era attenta. Vedete, sono io che come al solito sottovaluto le nostre donne, che invece erano tutte pronte, avevano segnato le cose. Ricordatevi, però, lo dico anche ai nostri telespettatori, che ripeto, per le questioni di trasporti vari. Pensate che anche Trieste-Cordenons è complicatissima, che Trieste-Cordenons, i treni che vanno dentro la regione Friuli sono molto complessi, hanno coincidenze molto complesse. Lunedì tutti a Perugia al Capitini, perché ci sono alle 20:30 mi pare Amato e Povia. Domenica dalle 9 alle 13 alla Borghesiana c'è il banchetto del Popolo della Famiglia, questa è un'altra occasione. Saluto Chiara Sammori, saluto vedi, Danilo Leonardi che definisce le nostre donne cric e croc, bella definizione. Saluto Andrea Dolcini, ma allora, domenica 27, cioè domenica prossima, dice Pippo Imbesi, giustamente. Esattamente alle 20:30 ho indovinato l'orario, l'ho già ricordato, l'incontro di Perugia con Amato e Povia. E allora, detto questo, la puntata di oggi la chiudiamo, io cerco di arrivare a Trieste, non so veramente in che maniera, pregate per me, cerchiamo di fare insieme tutto questo, è una cosa molto molto importante, perché lo ripeto, per il Popolo della Famiglia ci sono come sempre una marea di iniziative nel fine settimana. Le ricordo, oggi alle 18 la Santa Messa con l'Arcivescovo Crepaldi a Trieste seguirà convegno, il 26 a Cordenons, nella nostra capitale, dove il Popolo della Famiglia, centrando il 3,3%, ha eletto un consigliere comunale e anche il vice sindaco, quindi per noi è un grande e importante territorio. Il 27, ricordo che mi pare ci sia Amato a Torino, nonché il sottoscritto a Sesto Imolese. Il 28, Amato con Povia a Perugia. Come capite, la nostra ritmica, vedete, è almeno un'iniziativa al giorno del Popolo della Famiglia sul territorio nazionale. Quando siamo, diciamo così, in overbooking, facciamo due iniziative al giorno. Poi si torna a Roma e di corsa, ricorda i romani, perché ho visto Giovanni Fiori che non riesce mai a collegarsi in diretta, ma in questo momento c'è arrivato. Ricordo ai romani che il 1° dicembre c'è anche coordinamento, settimana prossima, coordinamento romano del Popolo della Famiglia. Saluto Anna Esaurita Eccelli, accetto l'in bocca al lupo da Danilo Leonardi, perché veramente oggi andarsene in giro per l'Italia sarà roba da lupi, speriamo di arrivare dagli amici triestini. Saluto Paola Procaccini, perché Roma c'è sempre. PDF travolgente in tutta Italia, invertiamo la rotta, scrive Marco Buono. L'importante, ecco, è vedere un soggetto politico, forse l'unico in questa fase, che sta facendo iniziative su iniziative su iniziative ogni giorno. Ripeto che domenica 27 c'è anche il banchetto del Popolo della Famiglia alla Borghesiana a Roma, PDF Roma. Come vedete, una serie di iniziative, il 27 solo, abbiamo già contate tre, per far capire quanto questo movimento stia lavorando. Ricordo appunto che ha scritto Cinzia Bornengo in questo momento, ieri sera c'era Amato a Novara, l'altro ieri era a Siena. Insomma, veniamo dall'emozione bellissima della festa della croce di domenica scorsa, in cui siamo ritrovati con tutto il gruppo dirigente proveniente da tutta Italia. Saluto Claudia Brignoli. Insomma, il 27 il Popolo della Famiglia fa l'aperitivo per il no anche a Ravenna, e vedete quante Iniziative dunque sono targate Popolo Famiglia in tutta Italia. Un partito così vivace, diciamo così, non lo incontrate evidentemente facilmente. Allora, io provo adesso, sento lievissimi segni di miglioramento del tempo atmosferico, a lanciarmi verso la stazione Termini, agganciare un treno che vada verso il Triveneto e Dio ce la mandi buona. Domani, dice Alberto Agus, convegno a Cagliari del PDF sul no al referendum, quindi segnalate, vedi, molte iniziative, tra l'altro non riuscivo neanche a segnalarle perché non le conoscevo, per cui segnalatele sempre in maniera che diamo notizie ai nostri telespettatori, sono, ripeto, molte migliaia ogni giorno, quindi ecco un'altra iniziativa importante. Domani a Cagliari, convegno del PDF sul no al referendum. Come capite, siamo in piena mobilitazione e lo siamo quotidianamente, tutti i giorni, con tantissime, tantissime iniziative su tutto il territorio nazionale, grazie alla capillarità del nostro gruppo dirigente in ogni regione. Come avete visto, solo elencando questa settimana abbiamo fatto iniziative in Emilia-Romagna, le faremo adesso in Friuli, Venezia Giulia, le abbiamo fatte in Lombardia, in Sardegna, nel Lazio, il 19 era a Lerici, in Liguria, a Gianfranco Amato, a Siena, in Toscana, insomma siamo davvero, credo, insomma evidentemente, nel massimo dello sforzo, diciamo così, anche organizzativo. Susi Esti scappa e ci vediamo dopo. Eccolo qua, il 29 sarà ad Imperia, immagino, Imperia, Gianfranco Amato, alla faccia di chi dice menzogna affermando che il PDF è per il sì. Vabbè, ma questa cosa ormai non ci crede più nessuno, solo quelli che provavano a imbrogliare, come sempre, sulla nostra pelle e soprattutto sulla pelle del nostro popolo. Nessuno è impegnato quanto noi, diciamo, anche fisicamente con il massimo della fatica, diciamo così, perché noi non abbiamo i soldi, come dire, dalla cassa comune, noi ci autofinanziamo sempre, ricordiamoci, questa è la differenza rispetto a quelli che invece campano e pagano i pullman con i soldi avanzati da altre iniziative, diciamo così. Saluto Silvana Scuccia, saluto Nino Iraci, che ci conferma infatti che è Imperia il luogo del 29 dell'iniziativa di Gianfranco Amato. E allora, con questo, arrivato anche al limite del nostro slot orario, prima di beccarci i rimproveri di Emanuela Pongiluppi, che mi sfuma insieme alla Centofanti e dice che sono andato troppo lungo, io vi ringrazio, vi chiedo qualche preghiera in più per la traversata dell'Italia. Trieste è lontana, lontana, quando la vedi sulla cartina geografica capisci che insomma ci sia davvero lontananza, insomma non da poco. Il 2 dicembre Massimiliano Amato ci informa che Gianfranco è ad Ascoli, quindi anche nelle Marche, come dice lui, però facciamo notte a dire tutto il calendario, quindi forza così, vuol dire che ci siamo, preghiamo tutti insieme, dice Susanne de Metz. Saluto Matilde Angioletti, saluto Sabino Sabini, ecco il gruppo della famiglia, gruppo preghiera del Popolo della Famiglia, che oggi va proprio attivato perché le nostre connessioni in giro per l'Italia, per tutti i dirigenti del Popolo della Famiglia, saranno agevolate, spero, dalla vostra preghiera. Saluto Lorenzo Damiano, saluto Antonio Vincenzo Orru, Angelica Bosio dice ti vogliamo bene, ti voglio bene anch'io. Saluto Paola Procaccini, Giovanni Mazzotta e Silvia Lucchetti, a cui ripetiamo gli auguri di buon compleanno e da Maria di Nolfi una buona giornata. Ci ritroviamo, lo ripeto, martedì. Non mi fate i messaggi che dite oggi non c'è stampa e Vangelo. Sabato, domani non c'è, sono in movimento da Trieste verso Gordenons e lunedì non c'è perché torno dalla serata di Sesto Imolese verso Roma. Ci ritroviamo in diretta martedì, lo ripeto, martedì alle 7:55 con Popolo della Famiglia TV. Stampa e Vangelo su Popolo Famiglia TV, tra le tantissime altre trasmissioni. Vi ricordo però lunedì che c'è sempre la trasmissione di Gianfranco Amato Liberamente, che è una trasmissione di grande successo. Paolo Valiera dice buongiorno verso il Friuli, buon viaggio verso il Friuli Venezia Giulia, la mia terra. Simon Pietro Garza dice buona traversata. Saluto anche Adriana Di Donato. Un abbraccio a tutti e ci ritroviamo. Lo ripeto, martedì con la diretta di Stampa Evangelo. Se si riesce, faremo le dirette dei vari convegni che facciamo in giro per l'Italia. Quelle le troverete rilanciate come sempre dalla pagina PDF TV, da Pongiluppi, Marco Buono, Francesca Centofanti e dal coordinamento editoriale. Rita Mesiti dice: hai una moglie molto paziente che ti deve condividere con tutti. In effetti la povera Silvia paga un prezzo molto ampio a essere mia moglie, anche perché questo è il weekend in cui compie 30 anni, anzi li compie lunedì per la verità, però ci sono insomma un po' di celebrazioni e festeggiamenti. Vabbè, noi abbiamo deciso di sacrificare tutto, ci hanno chiesto di sacrificare tutto e noi tutto sacrifichiamo insomma, alla necessità di testimoniare la verità. Con fatica, però ha ragione Rita Mesiti quando dice che ho una moglie molto paziente. Altra canzoncina, eh no, caro Marco Buono. Adesso le canzoncine sono finite, basta così. Gli auguri alla moglie, grazie a Dio. Essendo lunedì il compleanno, non vado in onda e non posso farli, così vi fregate. Va bene, grazie davvero a Rosalba Tavella, Antonietta De Jesu, a Leonardo De Stefano e a tutti gli amici del popolo della famiglia e anche ai simpatizzanti, o quelli che simpatizzanti non sono, ma comunque hanno seguito anche questa puntata. Sono le 8:55 e con una puntualità che mi auguro di trovare sulla nostra rete ferroviaria, ma credo non troverò, vi saluto e vi do l'appuntamento al ritorno martedì, ripeto, in diretta, qui su Popolo della Famiglia TV, con Stampa e Vangelo. Buon fine settimana a tutti da Maria Rinolfi.